Storie italiane. Bobino. C'era una volta un ragazzo acuto e intelligente e con un insaziabile appetito di conoscenza. Il ragazzo si chiamava Bobino ed era così pieno di domande che presto suo padre non ebbe più risposte da dargli. Quindi il padre trovò un maestro saggio e mandò Bobino da lui in modo che il maestro potesse insegnare a Bobino mille arti diverse. Il ragazzo trascorse 12 anni a studiare con il suo insegnante e quando fu grande abbastanza ed ebbe appreso tutto ciò che il maestro poteva insegnargli, Bobino tornò da suo padre. Figlio mio, quanto ti ho aspettato? Parlami di tutto quello che hai imparato. Padre! Oh, questi brutti uccelli! Sta arrivando un temporale. Padre, veloce! Dobbiamo trovare rifugio. C'è una grotta da questa parte. Non c'è nessuna tempesta in arrivo. Il cielo è limpido. Padre, uccelli e creature della foresta conoscono il mondo meglio di noi. Che cosa? Vedi, padre? Come facevi a saperlo? Dagli uccelli. Uno di loro me l'ha detto. Mi ha anche mostrato la strada per questa grotta. Com'è possibile? Conosco la lingua di tutti gli uccelli e di tutti gli animali, padre. E il mio maestro me l'ha insegnato. Che cosa? Il tuo maestro ti ha insegnato a diventare un mago? Non è così. In tutti questi anni, tutti quei soldi, e l'unica cosa che mio figlio ha imparato è il linguaggio di orribili creature? È questo che dirò ai nostri parenti e amici? Cosa ti aspetti? Le persone verranno da te per chiederti cosa sta dicendo il loro cane. Ma padre... La mia attività è gestita da umani e non da animali. Cosa ne sarà ora? Vattene, Bobino. Vattene subito e torna da me solo dopo che avrai imparato qualcosa di utile. Vai! E così Bobino se ne andò. Come desiderava poter dire a suo padre che tutta la conoscenza del mondo era nella saggezza della natura e delle creature. Ma quello non sarebbe accaduto. Quindi continuò a vagare. Ogni volta che Bobino era stanco, chiedeva a un serpente o a un uccello dove si trovasse una grotta nelle vicinanze e loro lo portavano lì. Quando aveva fame, chiedeva loro dove trovare cibo e acqua e loro gli mostravano la strada. Parlava con loro, rideva con loro e si divertiva nella natura. Poi un giorno incontrò una tribù. Perché stai abbaiando così? Stai calmo. Lasciami andare, legalo. No, aspettate. Di cosa si tratta, piccolo? Il cane sta dicendo che un gruppo di ladri attaccherà la tribù dopo mezzanotte stanotte. Ci sarà un gruppo di 4 uomini che verranno da sud-ovest. Come fai a saperlo? Perché capisco il linguaggio degli uccelli e degli animali. Queste creature percepiscono il mondo in un modo in cui noi umani non potremo mai fare. Parlano con i venti e parlano con il cielo e non sbagliano mai. Quindi dovremmo ascoltarlo e agire di conseguenza. Quindi quella notte gli uomini si nascosero dietro gli alberi e pile di grano e attesero i ladri. Come aveva detto il cane, 4 ladri vennero da sud-ovest. Ma gli uomini erano pronti e li respinsero. I ladri spaventati scapparono. E così il villaggio e i loro averi furono al sicuro. Grazie mille, signor Bobino. Hai salvato la nostra tribù. Non io, ma piuttosto i vostri animali hanno salvato la tribù. È solo grazie a te che ora sappiamo quale grande saggezza possiedono i nostri animali. Per favore, non andartene. Devo ancora vagare nelle foreste, ma vi visiterò di nuovo. Quindi Bobino andò di nuovo nella foresta e vagò per qualche settimana in più. Un giorno sentì le rane gracchiare più forte di quanto avesse mai sentito le rane gracchiare prima. Si avvicinò e si sedette sui fiori di loto. Le rane sembravano giocare ad acchiappino con una bottiglietta. Le rane lo videro, gli portarono da mangiare frutta e noci e gli mostrarono un posto dove riposare. La mattina dopo, Bobino ripartì e si imbatté in un piccolo villaggio. Sentì forti pianti e lamenti da una delle case. Quindi andò lì. Oh, che ne sarà di mia figlia? Per favore, non disperare. Potrebbe ancora accadere un miracolo. Mi scusi, signora. Potrei chiederle cosa la affligge così tanto? La loro figlia si è ammalata gravemente. Avevano preso le medicine dalla città vicina, ma il domestico ha fatto cadere la bottiglia sulla via del ritorno. Ora non c'è abbastanza tempo per portare più medicine per salvare la povera ragazza. Io so dove è finita la bottiglia della medicina nella foresta. Chiami subito il servitore, o meglio, mi prenda un cavallo. Come fai a sapere dove si trova? Signore, le spiegherò tutto questo in seguito. Datemi un cavallo. Sì, subito. Quindi Bobino salì sul cavallo e cavalcò dove erano le rane. Ehi, ho trovato il proprietario della bottiglia. Potreste darmela, per favore? Grazie! Bobino prese la medicina e la diede ai genitori della bambina malata. Appena presa la medicina, la bambina si sentì meglio. Era salva! La famiglia e tutti quanti nel villaggio se ne rallegrarono. Grazie, hai salvato la vita a mia figlia. Non sono stato io, sono state le creature della foresta a salvarla. È solo grazie a te che ora sappiamo quale grande saggezza possiedono i nostri animali. Per favore, non andartene. Devo ancora vagare nelle foreste, ma vi visiterò di nuovo. Quindi Bobino vagò nel bosco per qualche settimana in più e un giorno incontrò due uomini. Si sedette con loro a mangiare. Poi un falco andò lì e parlò con Bobino. Dice che nella città, appena fuori dalla foresta, ci saranno le elezioni per il prossimo governatore. Domani, all'una del pomeriggio, il suo amico Aquila sceglierà il prossimo governatore. E dice che uno di noi potrebbe esserlo. Un'aquila? Che strano! E tu come fai a saperlo? Non è strano, amico mio. È saggio. Lo so perché capisco la lingua degli uccelli e degli animali. Queste creature percepiscono il mondo in un modo in cui noi umani non potremmo mai fare. Parlano con i venti e parlano con il cielo e non sbagliano mai. In tal caso, dobbiamo andare immediatamente in città. Andate avanti. Mi unirò più tardi perché sono ancora un po' stanco e assonnato e voglio riposare un po'. Molto bene, amico. Ci vediamo lì. Quindi i due uomini andarono nella città dove una grande folla si era radunata per vedere chi sarebbe stato il loro nuovo governatore. Quando l'orologio batté l'una, l'aquila volò fuori dal suo trespolo nella quercia. Volò alto, osservando la folla da ogni parte, cercando il prossimo governatore. E poi all'improvviso piombò verso il cancello della città e si appollaiò sulla spalla dell'uomo che era lì in piedi. Quell'uomo era Bobino. Bobino rimase scioccato e proprio allora davanti a lui apparve il suo maestro. E la grande aquila ha scelto! Bobino sarà il nuovo governatore di questa città, perché chi comprende e mostra rispetto per le creature della foresta governerà anche gli umani con saggezza e compassione. Quindi, con grande sfarzo, in un carro d'oro, Bobino fu portato nella dimora del governatore. Bobino chiamò suo padre e alla fine suo padre comprese che in effetti uccelli e animali percepiscono il mondo in un modo in cui noi umani non potremo mai fare. Parlano con i venti e parlano con il cielo e non sbagliano mai. E proprio come aveva detto il maestro, Bobino, l'uomo che mostrava rispetto per gli animali, governò i suoi sudditi umani con compassione e saggezza per il resto dei suoi giorni.